Yeah. Amore, vero me, non ho. ancora in bianca il mio Veron. Già spola tolti, passar, e coi miei giorni leviti, il sonno mio sbarrita miei occhi langue. mai feci. Nel penetrar più sacro di mia magione, presso a lei che sposa esser donna d'un Silva, tue seduttori osponde. Tentate la mie fidi cavalieri, sia ognun testimon del disonore dell'onta, che si reca il suo signore. Non tremerà, onde scende il vertigo e la mano tremerà. Yamahan, Yamahan, no, no, non tremerà, già non tremerà. Yamahan, non tremerà. Tergere, o vivo a sol cantà. Me fa tremante il sonito, segno che dimmi può farò. Yamahan, Yamahan, no, no, no, tremerà, Yamahan.